Il Sole 24 Ore. Commissione d'inchiesta sulle banche, non ho autorizzato nessuno ad occuparsi di Etruria, dice Padoan. Elezioni, Di Maio apre a possibili alleanze e sull'euro dice in caso di referendum voterei per l'uscita. Il PD commenta una follia. Schianto sull'Aurelia, l'ex ministro Matteoli morto in un incidente stradale. A Seattle, treno deraglia su un ponte, precipita sull'autostrada, 6 morti, decine di feriti, anche gravi. Buongiorno dalla redazione e da Laura Bettini. In apertura quindi l'audizione del ministro dell'economia Padoan in commissione d'inchiesta sulle banche. Non ho autorizzato nessuno a occuparsi di banche, dice con riferimento ai colloqui dei ministri Boschi e Delrio su Etruria. Non ho autorizzato nessuno, anche perché nessuno mi ha chiesto l'autorizzazione. La gestione, come lei ricordava, delle questioni bancarie è ovviamente in capo al ministro dell'economia e delle finanze, che d'abitudine ne parla molto spesso in situazioni difficili col Presidente del Consiglio. Il commento è di Marco Ferrando. Il ministro che si smarca dalla ministra, in particolare dai suoi ormai più che presunti interessamenti sulle vicende bancarie, a partire dalla vicinissima Etruria. E poi il ministro che si smarca dalla conferma di Ignazio Visco a Banca d'Italia, o perlomeno la giustifica con un contesto che di fatto non consentiva alternative. Per almeno due volte Piercarlo Padoan ieri si è chiamato fuori da alcune delle questioni nodali della commissione d'inchiesta sulle banche, della serie chiedete ad altri. Ci può stare, e come. Il processo di fine legislatura che si celebra a San Macuto invita a evitare inutili eroismi o ad assumersi responsabilità personali su situazioni così complesse e incancrenite da vedere, per forza di cose, una responsabilità collettiva. Di diversi governi, di diversi partiti, a ben guardare di un certo modo di fare politica, che per decenni ha pensato di poter gestire e risolvere i guai bancari del paese e poi, quando la bomba è esplosa, si è lanciato in una interminabile e incrociata resa dei conti. Il fatto è che in cambio di qualche mezza verità, peraltro probabilmente poco interessante, ci lascerà solo con un gigantesco polverone. Marco Ferrando, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Oggi sarà ascoltato in audizione il governatore di Banca Italia Visco, mentre domani sarà la volta dell'ex AD di Unicredit Ghizzoni. Andiamo alla politica con le schermaglie elettorali, scontro tra Renzi e Di Maio sull'euro. Si entra nel vivo delle questioni in campagna elettorale. La prima è l'euro. Luigi Di Maio attacca con un governo 5 Stelle. La permanenza dell'Italia nella moneta unica non sarebbe scontata. Così all'aria che tira. Allora, se dovessimo arrivare al referendum, che per me è l'estrema ratio, se ci dovessimo arrivare a quell'estrema ratio, è chiaro che io sarei per l'uscita, perché vorrà dire che l'Europa non ci avrà ascoltato su nulla. Poi torna parzialmente indietro. Il nostro obiettivo, dice il candidato Premier 5 Stelle, non è uscire dall'euro, ma rendere la permanenza del nostro paese conveniente. Ormai però il danno è fatto, almeno per il PD, una follia per il segretario Dem Matteo Renzi, seguito dagli altri del Nazareno, così Matteo Richetti. Proporre l'uscita dall'euro nel giorno in cui l'Italia registra record di export e di crescita è da veri e propri irresponsabili. Significa dire a chi sta investendo in Italia che questo sarà paese di incertezza. Ed è ancora botta e risposta sulle banche. Per Di Maio non c'è stata chiarezza sui movimenti di Maria Elena Boschi, mentre per Matteo Renzi la sottosegretaria ha chiarito tutto e sarà ricandidata con il PD. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. I provvedimenti del governo permetteranno a 53.000 persone di avere una pensione o una indennità anticipate dai 5 mesi ai 3 anni, dice Stefano Patriarca del team economico di Palazzo Chigi. Gli sconti interessano il 20% della platea prevista per il 2019, cambia la web tax passando dal 6% fissato al Senato al 3% e non viene allargata all'e-commerce. Su richiesta di Alternativa Popolare, rifinanziamento completo per il 2018 del bonus bebè, raddoppio delle detrazioni fiscali per i redditi dei figli a carico delle famiglie, la soglia passa da 2.000 a 4.000 euro. L'ex ministro Altero Matteoli è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sull'Aurelia vicino a Capalbio. Altero Matteoli è stato un missino convinto negli anni 70 e 80, segretario del Partito della Toscana, consigliere comunale e provinciale a Livorno per 4 legislature. Il salto della sua carriera politica se la costruisce proprio negli anni in cui il vecchio movimento sociale viene messo da parte per confluire nel progetto di Alleanza Nazionale di Gianfranco Fini nel 1994, quando la vecchia destra si incrocia con un'anima più moderata e neocentrista. Da quel momento per Matteoli inizia la scalata degli incarichi di governo. Negli esecutivi a guida Berlusconi nel 1994 e 2001 ricopre il ruolo di ministro dell'ambiente. Sono numerosi gli scontri con le associazioni ambientaliste che gli imputano il ritardo nell'approvazione del piano nazionale di assegnazioni delle emissioni, l'accettazione dei condoni edilizi, la mancata battaglia contro l'abusivismo. Nel terzo governo Berlusconi nel 2008 passa dall'ambiente ai trasporti e firma l'accordo per la realizzazione del collegamento ferroviario ad alta velocità fra Torino e Lione. Lo scorso 14 settembre Matteoli viene condannato in primo grado a 4 anni di reclusione per corruzione. Daniele Biacchesi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La nipote di Graziano Mesina, l'ex primula rossa del banditismo sardo, è stata deliberatamente investita ieri sera dal suo compagno in una via di Orgosolo dove vive la coppia. La donna, Pasqualina Mesina, cinquantenne, ora ricoverata in fin di vita all'ospedale di Nuoro. Il compagno, Giovanni Corrias, quarantottenne, l'avrebbe investita con la sua auto. Erano, a quanto sembra, entrambi in stato di ebbrezza. 6 morti e decine di feriti nel deragliamento di un treno nello stato di Washington, negli Stati Uniti, mentre viaggiava questo treno su una nuova tratta inaugurata proprio ieri tra Seattle e Portland. Alcuni dei vagoni usciti fuori dai binari sono precipitati su una strada interstatale, finendo su 5 veicoli in transito. Un altro vagone è rimasto per ora in bilico su un ponte ferroviario. La causa dell'incidente potrebbe essere stata l'eccessiva velocità del convoglio. I sudtirolesi potranno richiedere la cittadinanza austriaca già nel 2018 ed è polemica. La possibilità di concedere la doppia cittadinanza agli altoatesini era stata ventilata domenica, provocando la levata di scudi della politica italiana. Ieri, il giorno del giuramento del nuovo governo austriaco formato da conservatori d'estrema destra, l'annuncio ufficiale. I sudtirolesi potranno richiedere la cittadinanza austriaca già nel 2018, al più tardi all'inizio del 2019. A dirlo a Bolzano, Werner Neubauer, responsabile per i rapporti con l'Alto Adige del partito di ultradestra austriaco ora al governo. La richiesta, spiegato Neubauer, potrà essere avanzata da chi si è dichiarato tedesco e dei suoi figli e sarà gratis. Se il sottosegretario agli esteri della Vedova aveva parlato di pugno di ferro etnonazionalista, ieri sulla questione ha speso parole lo stesso Angelino Alfano. Sarà una discussione da affrontare con grande delicatezza, ha detto il titolare della Farnesina, in coerenza con la nostra storia e la tutela dei nostri cittadini. Ieri il neopremier austriaco, il conservatore Kurz, ha ricevuto le congratulazioni della cancelliera tedesca Merkel e del presidente del Consiglio europeo Tusk, il quale vedrà questa sera a Bruxelles il neocancelliere austriaco, così come farà il presidente della Commissione EU Juncker, che si è riservato ogni commento dopo il colloquio con Kurz. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Polemiche sul rientro delle spoglie di Vittorio Emanuele III con quelle della regina Elena da traslare nel santuario di Vicoforte, traslate nel santuario di Vicoforte in provincia di Cuneo. Il presidente del Senato Pietro Grasso ribadisce il suo no a qualsiasi onore pubblico. Pietà non è dar ragione, aggiunge il ministro dell'Interno Minniti. Per Emanuele Filiberto le salme devono invece andare al Pantheon. Abbiamo un documento del rettore che l'autorizza. Di diverso avviso, la presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, sarebbe uno scempio. Questo rientro ci addolora in qualche modo, ma ci preoccupa perché non vorremmo che fosse poi motivo di rivisitazioni storiche o peggio ancora per omaggiare una figura che invece non lo merita. Ancora di più ci preoccupa il fatto che si paventa possa arrivare a Roma. Su questo siamo sicuri che le istituzioni garantiranno che ciò non avvenga. Possiamo comprendere le scelte del Quirinale, ci affidiamo al presidente Mattarella che su questo ha sempre dato indicazioni di grande chiarezza e determinazione sui valori della memoria e sul rispetto dei valori democratici dell'Italia. Infine il calcio, crisi infinita per il Milan, all'indomani della figuraccia di Verona annullata la cena di Natale prevista per stasera, tutti in ritiro a tempo indefinito. A letto senza cena di Natale. Usa le maniere forti nei confronti della squadra, la società, per provare a risollevare il diavolo dall'inferno in cui è precipitato. Il KO di Verona porta quindi i vertici del club all'annullamento della consueta cena natalizia. Di più, squadra in ritiro fino a data da destinarsi, come comunica un laconico tweet. Misura anche questa condivisa con l'allenatore Rino Gattuso, che già nel dopogara al Bentegodi aveva fatto capire la gravità della situazione. Non basta solo il carattere, dopo io non sono un santo padre Pio che fa i miracoli, non, io sono un allenatore che in questo momento la cosa che mi preoccupa di più è l'aspetto mentale. E il calendario non aiuta. Sabato a San Siro arriva la temibile Atalanta, il 27 dicembre poi per i quarti di Coppa Italia ecco il derby con l'Inter, che in Serie A vanta al momento ben 16 punti in più dei cugini rossoneri. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci fermiamo qui con questo giornale radio che è stato curato da Daniele Biacchessi e Dario Ceccarelli. Ringraziamo in regia Carmelo Lauricella e ci ritroviamo alle 6:59. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Guido Gentili. Siamo in missione per conto di Dio. Mattino di Luca Telese. Siamo qua e siamo i primi che pongono le condizioni della continuità. Ecco, questo mi pare da sottolineare. Quanta poesia in questi risvegli di buon umore. Vado a dormire tardi, mi sveglio molto presto. Sono sostanzialmente arrabbiato. Qual è la notizia del weekend che ci siamo persi? Sony, la Boschi si è alzata il sopracciglio, se non l'ha abbassato abbastanza. Sono state polemiche un po' ad minchiam, diciamo. Mettiamola in caciara. Avanti, Savoia! Ah, Gesù Cristo. Non è esattamente politicamente corretta come frase, ma non ho visto quella di cui parla, però vabbè. Ma no, la colpa è dei tedeschi. Ma Vittorio Emanuele III io non lo seppellirei in Italia. Rido amaramente. Ai maschi regalate la bambola per insegnargli che saranno dei papà che accudiranno troppi figli. Se io a quest'ora faccio la lavatrice. Se ci credete, mettete, investite, fatevi vivi. No, le donne no, hanno la gravidanza, gli uomini no. No. È la natura. È la solita storia della sinistra che dice più diritti invece di realizzarli diritti. Laboratorio politico, ma inteso nel senso di gabinetto di indecenza, cioè un posto dove si azzardano cose che altrove non si fanno. Questa è l'intermediazione, che parole belle che ha inventato la modernità. Io sono favorevole. Ogni giorno ci ispiri, ogni giorno ci porti nel luogo dove tutto diventa chiaro. A me la verità non fa paura, mai. Reach out and touch me. Popolo dei già svegli, buongiorno. Oggi tante cose. Un ministro delle infrastrutture drammaticamente muore e può accadere solo in Italia. Pensateci, sulla strada che voleva convertire in autostrada. E poi il calcio come grande segnale, la crisi del Milan. A letto senza cena, si diceva ai bambini, e il Milan vede cancellato il suo cenone di Natale, diventa sempre più psicodramma nazionale. E poi ovviamente gli sviluppi del caso Boschi, ancora thrilling, non ci crederete, sullo Ius Soli, l'abbiamo detto in questa rassegna stampa, nei giorni pari si può votare, nei giorni dispari no, e insomma tante cose che discutiamo insieme nel fritto misto al maestro Andrea Purgatori. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ti fa sento parti, tonico, freddo e determinato. Bravo. Perché sei sotto una termocoperta o sei già vaghi per la casa con la tazzina del caffè in mano? No, io sto già vagando, ho fatto colazione, sono in forma perfetta, pronto a farti da spalla. Ah beh, ma no, mai spalla. Protagonista, dimmi subito che pensi di questa cosa. Il Milan cancellato il cenone di Natale per demeriti sportivi. Ti sembra un gesto esemplare nell'Italia del lassismo? Sì, mi sembra di sì. E sai, il Milan secondo me sta in un guaio enorme, soprattutto sì, per quello che hanno speso E perché secondo me i cinesi a un certo punto se ne tornano a casa, lì non so che cosa, come va a finire, quindi se rinunciano al cenone mettono da parte qualche soldino, insomma, ecco qua. Bene, allora entriamo subito nei fatti della giornata. Brunetta sulla morte di Matteoli, è stato lui a dare la notizia durante i lavori della commissione alla Camera. Non abbiamo adesso le condizioni per poter approfondire. La mia risposta personale è che anch'io è morto Matteoli. Matteoli? È morto Matteoli. Scusate, ma il Presidente Brunetta ha dato una notizia molto, molto triste della scomparsa in un incidente stradale del senatore Matteoli, che è un amico grande di tutti noi, per cui siamo un pochino toccati da questo, ma comunque noi dobbiamo continuare. Fa sempre impressione questo squarcio di umanità anche nei palazzi, che la leggenda vuole freddi algidi. Mentre si lavora, oddio, è morto Matteoli. Esattamente quel punto dove è avvenuto l'incidente, che è uno dei punti davvero maledetti dell'Aurelia. Sì, incroci a raso, lì si rischia la vita. Più che altro, sai, è un punto dove si allarga, l'Aurelia si allarga e c'è una corsia centrale che consente alle macchine di attraversare, cioè svoltare, e quindi se tu arrivi in velocità, all'improvviso uno ti gira davanti, non lo prendi, insomma, ecco. È uno di quei punti maledetti che anche Matteoli voleva eliminare. Questa è l'ironia della sorte. Da ministro delle infrastrutture, sì, prima da sindaco, sì, era uno dei tifosi dell'autostrada, molto combattuta dalla sinistra, da intellettuali. No, anch'io l'ho combattuta anch'io, ma per semplicissimo motivo che lì bastava spendere un decimo per mettere in sicurezza l'Aurelia, cosa che stanno facendo un pochino alla volta adesso. Cioè, dici, facendo degli attraversamenti sotterranei? Sì, certo, mettendola in sicurezza, perché fare l'autostrada era un'operazione economicamente demenziale, mentre metterla in sicurezza è una cosa, diciamo, che si può affrontare. Ma adesso il problema non è parlare dell'Aurelia. Purtroppo Matteoli è morto, ma lì c'è una carneficina ogni anno su, certo, quella strada. Però io sono un fan delle autostrade, cioè non capisco che cosa avrebbe sfregiato un'autostrada sul paesaggio bellissimo della Toscana. C'è un'autostrada, cioè nei posti più belli del mondo ci sono le autostrade, non sarebbe morto nessuno. Questa è la mia idea. L'autostrada non è solo l'autostrada, è tutto quello che c'è intorno, poi che viene con l'autostrada. Comunque è un discorso lungo. Padoan, commissione banche, mettesse in sicurezza, se non altro. Esatto. Padoan in commissione banche, il titolo di tutti i giornali di oggi, in cui dice: non avevo delegato nessuno a occuparsi della trattativa sulle banche. Ha autorizzato nessuno, anche perché nessuno mi ha chiesto l'autorizzazione. La gestione, come lei ricordava, delle questioni bancarie è ovviamente in capo al Ministro dell'Economia e delle Finanze, che d'abitudine ne parla molto spesso nelle situazioni difficili col Presidente del Consiglio. Allora, qui tutti i giornali hanno dato questa interpretazione, è un richiamo di Padoan alla propria responsabilità e una negazione che nessun altro fosse abilitato a intervenire. L'hai letta così? Sì, l'ho letta così, anche perché siccome ci sono state dichiarazioni, compresa la Boschi, in cui si è detto: ma lo facevano tanti ministri, andavano a parlare di qua, di là, eccetera, giustamente Padoan ha rivendicato, no, la sua esclusiva e il suo primato rispetto a questo tipo di vicende. Oggi si apre una 48 ore micidiale, perché c'è Visco, domani c'è Ghizzoni e in commissione auditi. Mercoledì sera capiremo che cosa accade di Maria Elena Boschi, perché soprattutto Ghizzoni, se conferma quello che ha scritto Ferruccio De Bortoli nel libro, insomma, poi dovrà prendere delle decisioni al di là di quello che decide il partito, io credo. Allora, Di Maio va ospite della Merlino e, dopo aver per lungo tempo fatto muro sulle richieste sul referendum, fa un'affermazione pesante in cui dice che sì, si potrebbe fare questo referendum sull'euro. Io penso che il PD stia affondando come il Titanic. E prima che affondi dico a quelli del PD: parlate, diteci tutto sullo scandalo delle banche, perché qui non c'è coinvolta solo la Boschi. La Boschi è la punta di un iceberg. C'è Verdini, c'è Berlusconi, c'è Ghizzoni con Unicredit. Ci sono tanti nomi, tante persone coinvolte in questo scandalo che farà crollare la Seconda Repubblica. Ma prima di vederla affondare la Seconda Repubblica vogliamo sapere la verità. Allora, avevamo due audio. Questo è sulle banche ed è prevedibile che è Di Maio che attacca ovviamente il governo, la Boschi e tutto. Ma sentite l'altro, quello sul referendum sull'euro, numero 8. Se dovessimo arrivare al referendum, che per me è l'estrema ratio, perché io voglio prima andare ai tavoli europei e provare a cambiare questo una serie di regole, il referendum per me è l'estrema ratio. Se ci dovessimo arrivare a quell'estrema ratio, è chiaro che io sarei per l'uscita, perché vorrà dire che l'Europa non ci avrà ascoltato su nulla. Allora, cosa pensi di questa frase? È una rottura nella strategia dei 5 Stelle, una frase dal sen fuggita, o è consapevole? È fuggita pure male, mi sembra uno che vuole salvare il Titanic con l'accetta cercando di fare un buco nello scafo. Cioè, lui va in giro con la giacca, la cravatta, per il mondo a dire: siamo affidabili, siamo dei bravi ragazzi, noi vogliamo fare in modo che non ci siano, anche se andremo al governo, dei momenti di turbativa nel paese, eccetera. Dopodiché dice: facciamo il referendum per uscire dall'euro. Ma insomma, si rende conto di quello che sta dicendo oppure no? Secondo me Grillo gli ha tirato le orecchie oggi. Ma perché non credi che per un pezzo di elettorato 5 Stelle comunque l'idea di dare una spallata all'euro, se non si riescono a cambiare i rapporti di forza in Europa, possa essere un richiamo forte? Ah certo, ma io posso anche fare una campagna elettorale dicendo: regalerò 1 milione di euro a tutti, no? Cioè, che vuol dire? Anche la Lega ha un elettorato che vuole uscire dall'euro. Il problema è che bisognerebbe forse spiegare che se usciamo dall'euro, avendo un debito di 2.238.000 miliardi, in una situazione in cui siamo i più indebitati d'Europa, perché su 1.000 miliardi di crediti inesigibili l'Italia, le banche italiane ne hanno 400, cioè, voglio dire, usciamo dall'euro e poi andiamo a mangiare i bruscolini per strada, perché cioè non c'è una soluzione alternativa. Ma la cosa che più mi impressiona è che da una parte appunto cercare di far vedere il volto affidabile del Movimento 5 Stelle, dall'altra dire: vogliamo uscire, facciamo il referendum per uscire dall'euro pur di raccattare voti. Secondo me non è un'operazione sana e seria anche nei confronti dell'elettorato. La comunità ebraica contro la salma di Vittorio Emanuele III. Ieri ha parlato Ruth Dureghello, presidente della comunità di Roma, ai margini della presentazione del restauro del portico di Ottavia. E sentite com'è dura. Il rientro della salma di Vittorio Emanuele III in Italia sicuramente non è stato accolto con soddisfazione non solo dalla comunità, ma penso proprio dalla società civile. Le responsabilità di Vittorio Emanuele III nella storia, soprattutto nella storia che ha segnato gli ebrei romani, gli ebrei italiani, ma anche i partigiani, la resistenza e gli italiani tutti, è una storia fatta di grandi responsabilità. Quindi questo rientro ci addolora in qualche modo, ma ci preoccupa, perché non vorremmo che fosse poi motivo di rivisitazioni storiche, o peggio ancora, per omaggiare una figura che invece non lo merita. E il re che ha firmato le leggi razziali, ieri qui Francesco Merlo ha detto addirittura: o nel Pantheon o in Africa, quindi meglio in Africa perché nel Pantheon non dovrebbe stare. Tu che pensi? Ma sì, io penso che il Pantheon forse non sia proprio la destinazione giusta. D'altra parte credo che insomma la storia la sua punizione gliel'abbia già data, prendersela con una bara io lo trovo eccessivo. Il momento è sbagliato, cioè se c'era un momento nel quale dovevano fare una cosa di questo genere erano tutti meno che questo, perché abbiamo di questi rigurgiti di fascismo, di revisionismo, no? E cioè, francamente, far tornare pure questo re che si è comportato in modo codardo, io francamente non l'avrei fatto adesso. Allora, per Di Maio, che vuole almeno minacciare l'uscita dell'Europa come estrema ratio, nasce una lista europeista capeggiata da Emma Bonino, e dove va a presentare il simbolo da Fazio. Guardate che questa classe politica che voi tanto disprezzate da cittadini o da elettore, l'avete eletta voi, non è che cade dal cielo perché qualcuno... Quindi pensateci magari la prossima volta. Io vi offro un'occasione e ve ne parlo dopo. Però badate che ognuno ha le sue responsabilità. No, ce ne parlerà un'altra volta quando verrà a trovarmi in studio. No, io ve ne parlo subito. Voi non ve ne parlate. Sì. Io ha tirato fuori il simbolo. Io non faccio presidente del Senato, però mi butto in un'altra avventura. Sì, per favore, non vi dimenticate. Però... Era un po' imbarazzato Fazio perché tutti i simboli presentati a lui neanche fosse la commissione elettorale di una volta. Però per Di Maio che vuole uscire, la Bonino che vuole restare, c'è la soluzione del Noce. Fabrizio del Noce fa il pensionato in Portogallo, è uscito all'Italia, diciamo. Ormai questo è il quarto anno che passo qua, è anche un modo di esprimere una propria protesta personale su una esagerazione che sono le tasse italiane. In Italia quanto pagherebbe di tasse? Quasi il 70% in Italia. E invece qui? Qui poco, si può parlare di un 4-5%. Di pensione ho preso qualcosa meno del 50% di quello che guadagnavo di stipendio. Meno del 50%? Meno del 50%. Questo diciamo netto, come lordo? Come lordo, sì. La cifra gliela posso chiedere? No. Non preferisco non dirmi, vabbè. Andrea, tutti in Portogallo, direi. Perché... Dici che stanno in Portogallo. Esuli in Portogallo, pensionati esuli in Portogallo, eroi. A proposito dell'esilio dei monarchi. È interessante. Non sono in Portogallo, adesso lascia perdere Fabrizio, che è un diciamo pensionato di lusso, diciamo, sicuramente. Di lusso, però ci sono tanti piccoli pensionati da 1000 euro al mese che sono andati, 1500 euro al mese che se ne sono andati alle Canarie, magari. E gli cambia la vita. Ti cambia la vita, sì, ti cambia la vita. Qua che con 1500 euro paghi l'affitto e poi ti muori di fame, invece alle Canarie paghi un affitto e vivi dignitosamente. E su questo forse un ragionamento bisognerebbe farlo. Eroi! Ecco. 24 mattino. I già svegli. Ciao, sono Vincenzo Giorgio, sono un ufficiale dell'aeronautica. Mi piace svegliarmi la mattina ascoltando i tuoi discorsi. Non dico che aspetto di svegliarmi per sentirti parlare, però insomma è una cosa molto vicina a questo. Sono Marisa, mi sveglio sempre presto. Prima ascoltavo Milan e adesso ascolto Telese. Un po' l'insonnia, poi se aspetto che la trasmissione perché mi piace. Radio 24, io sono attaccato a te, però sentendovi parlare, quasi quasi me ne vado e non vi telefono più. Radio 24, io mi domando se la gente in Italia deve andare in pensione a 67 anni. I politici che vanno a 50 anni, 55 anni, sono ladri, ma perché non ce lo dici? Sono Giuseppe, sono un tassista di Milano. La mattina si parte con le 6.30, si sveglia, si porta i bambini a scuola e alle 8 in punto si parte con i cani e i gatti. E sono proprio quello che è successo o sta succedendo alla mia gatti. Io ho vissuto la stessa situazione, un'azienda sull'orlo del fallimento e poi grazie alla solidarietà di tutti noi dipendenti e la nostra forza è stata più forte ancora della cosa negativa che ci era capitata. Sì, sono grandi tormentoni questi che attraversano il programma, le storie sulla Melegatti. Abbiamo purtroppo un capitolo negativo, oggi lo racconteremo, cioè sembra che le difficoltà continuino e c'è la bellezza di queste profilassi mattutine, svegliarsi per comunicare, ascoltare, raccontare. 02 30 22 44 92, io sono qui con il comandante Andrea Purgatori e sentite che cosa si prepara stasera, una nuova puntata di Atlantide tutta dedicata al mistero dei misteri italiani. Il muro di gomma che per 37 anni ha rimbalzato la verità sulla strage di Ustica si sta forse sgretolando. Un testimone racconta in esclusiva ad Atlantide che i phantom americani abbatterono due MiG libici nello stesso cielo in cui esplose il DC-9 Italia. Lui era sul ponte della portaerei Saratoga quando i caccia decollarono e vide tutto. È un incredibile colpo di scena, Andrea, anche per te che hai seguito questa storia per un quarto di secolo ormai. Beh, un po' di più di un quarto sì, di secolo. Sì, più di un quarto di secolo, 40 anni. Sì. Comunque è domani sera. Ah, domani sera, perfetto. Domani sera. Segnare sì, sulla agenda. Sono andato in Texas a intervistare questo ex militare della US Navy che tira dentro la vicenda di Ustica alla portaerei Saratoga, che comunque era uno dei grandi buchi neri di questa storia, e la tira dentro pesantemente perché racconta di quella notte in cui abbatterono due MiG libici. Lui non collega direttamente l'episodio alla esplosione del DC-9, ma è ovvio che si parlava di guerra aerea. Quindi lo scenario di cui ha parlato Cossiga di battaglia nei cieli, perché c'era una portaerei francese, c'era la portaerei americana, c'erano MiG libici che correvano di qua e di là per il Mediterraneo e l'Alleanza Atlantica li inseguiva. Eh sì, è così, è questo, insomma, diciamo, si sta prefigurando esattamente lo scenario di cui parlò Cossiga, che di cui parlò Priore nella sua ordinanza, insomma, di cui si è sempre immaginato senza trovare prove. Ecco, questo è il punto. E domani sera questa intervista, insomma, dice tante cose pesanti su cui poi la anche se il vertice dell'aeronautica continuano a dire è stata una bomba nella toilette. No, non lo dicono i vertici dell'aeronautica, lo dicono alcuni ex ufficiali, purtroppo insomma sostengono questa tesi insostenibile, perché insomma fare immaginare una bomba che esplode dentro la toilette di un DC-9 che è di un metro quadrato, lasciando intatto tutto e facendo collassare l'aereo, insomma una bomba, sarebbe una bomba talmente intelligente che l'avrebbero brevettata anche i militari, ma non è così purtroppo. Allora, abbiamo parlato di Denoce in Portogallo, senti, un architetto che diventa apicoltore, Andrea, 34 anni, di Ostia. Nella vita diciamo che ho iniziato col sogno di fare l'architetto e invece oggi faccio il miele. Quindi ho mollato da un mese a un altro, lo scherzo, da un mese a un altro, e ad oggi faccio l'apicoltore. Se prima facevo la fila sul raccordo la mattina, adesso la mattina mentre gli altri fanno la fila io sto per boschi. Riesco a portare mia figlia a scuola qualche mattina, non mi era mai successo, e la qualità della vita è un'altra cosa. Le scelte di vita, Andrea? Anche la qualità del miele sarà un'altra cosa. Questa, oltre alla qualità della vita. No, ma guarda che ce ne sta tanta di gente così, sì, io sono stato in Basilicata, dove ci sono una serie di ragazzi che hanno studiato all'estero, cioè, e poi hanno deciso di tornare a mettersi a fare gli agricoltori, naturalmente agricoltori d'eccellenza, cioè non a coltivare il campetto così, insomma, cioè hanno ragionato sul ritorno nella propria terra e su come far diventare l'agricoltura un modo per lavorare e per vivere meglio, che secondo me non sarebbe male, perché ci sono intere zone di questo paese che sono state abbandonate perché l'agricoltura non rendeva più. Farla tornare ad essere, diciamo, un modo eccellente per lavorare, per vivere meglio, secondo me è straordinario. Viva l'apicoltore, anche perché salva le api, che come sappiamo con i pesticidi rischiano l'estinzione. E salvano le api, salvano l'ecosistema. C'è una protesta che dice: ah, avete definito privilegiati pensionati a 1500 euro. No, forse hai sentito male. Parlavamo del nostro collega Delnoce, che ha una pensione, di cui non ha voluto dire l'importo, molto, molto, molto superiore ai 1500 euro, e non c'è nulla di male perché ha pagato i contributi e lui abbiamo definito privilegiato. Invece senti, un illustratore italiano al New Yorker, importantissima rivista americana, Simone Massoni, 39 anni, è diventato uno dei titolari. Senti. Da illustratore, disegnare per il New Yorker, il New York Times, tutti questi giornali qui, è diciamo abbastanza uno dei sogni che credo chiunque abbia. Io, come tutti, non vivendo a New York fisicamente, quindi ho tentato la via classica, no? Di mail, contatti, eccetera, cioè mettermi in contatto con qualcuno che lavora. E ce l'ha fatta, e ci sembrava molto bella questa testimonianza. Ma voglio chiudere con Andrea, che il re dei misteri italiani ad Atlantide, domani il suo speciale l'UFO sul Pentagono. Purgatori deve indagare qua, eh. Dov'è? Ecco qua, hai capito? Dal 2007 al 2012 aveva pure un progetto di ricerca sugli UFO. Questa è una puntata che va fatta. C'è qualcosa che sta volando, diceva quelle. Gli UFO lasciamoli perdere. Invece volevo dirti, lo sai che la Marvel considera i disegnatori italiani tra i migliori al mondo? Il Ragno lo fa disegnare a una nostra. Vai, italiana. Bello, non lo sapevo. Allora, grazie Andrea, domani tutti inchiodati per la puntata su Ustica e i suoi nuovi sviluppi. Noi ci fermiamo un attimo e torniamo col giornale radio.